got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno. Credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare non a vanvera contro questo vostro matrimonio, ma voi siete due esseri perfetti che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio. E cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, dilli, che cavolo aspettiamo a mangiare? Take a little and let your poor heart break a little. Buona serata da Valentina Furlanetto, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Indovina chi viene a cena, la trasmissione di Radio 24 che parla dell'Italia che sta cambiando e attraverso la cucina e le ricette ci racconta qualcosa in più degli stranieri che vivono nel nostro paese. Questa sera ho il piacere davvero di avere un ospite importante, un premio Pulitzer, una scrittrice americana però che vive in Italia ormai da un anno, ma ce lo racconterà a lei. Abbiamo Giunpa Lahiri. Buonasera. Buonasera. Grazie di essere con noi. Ha scritto e abbiamo letto in Italia L'interprete dei Malanni e quest'ultimo libro La moglie, che è uscito da poco per Guanda Editore. Giunpa Lahiri, lo sa, noi ogni sera portiamo un piatto e raccontiamo un piatto con il nostro ospite. Lei è nata a Londra da genitori bengalesi, ha vissuto negli Stati Uniti e ha fatto questa scelta di vivere un periodo temporaneo in Italia. Qual è il piatto che lei ci racconta questa sera? Un piatto tipico bengalese che mi piace molto è semplicemente un piatto di riso bianco bollito con le lenticchie rosse condite con zenzero, aglio, un po' di limone. La preparazione si chiama dal. Questa cosa si mangia sempre all'inizio del pasto, prima, durante il pranzo e anche per la cena. È la cosa, il piatto più semplice, è la cosa più fondamentale, direi, per un pasto bengalese. E questa cosa è il mio piatto preferito perché appunto perché è molto semplice ma saporoso. Era un piatto che si cucinava spesso, immagino, a casa sua. Sì, sì, ogni giorno, ogni sera mia madre prepara un dal con varie lenticchie, perché ci sono vari tipi, ma il mio preferito è questo, le lenticchie rosse. Lei cucina a casa? Sì, sì, io amo cucinare e mi rilassa perché è un'attività creativa alla fine. Siccome il mio lavoro no, ci vuole tanto tempo, molti anni di solito per realizzare un libro, invece dopo aver scritto qualche pagina tutta la mattina poi scendo e vado in cucina, preparo un pasto per la famiglia e per me è una bella soddisfazione perché riesco a creare qualcosa completa ogni giorno. Quindi vedere la fine molto. Del lavoro, insomma, invece sì. Un libro presuppone più tempo. Esatto. Suo marito ha un'origine internazionale, diciamo così. Lei, lo dicevamo, ha origini bengalesi e americane, radici molto forti americane, e vive in Italia. A casa sua si cucina bengalese, americano, italiano o un mix? Un misto, un bel misto, che scendo in piazza ogni mattina, compro delle cose, le verdure. Di solito facciamo una cosa semplice, una pasta del pesce alla griglia, delle verdure, ma di solito d'inverno ci vuole un bel curry. Tigers on a gold leash, we don't care. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royal. It's a one in our blood. That kind of luck just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee. And baby, I'll rule. Let me live that fantasy. Questa della cucina è un aspetto dell'identità attraverso il quale secondo noi passano molte cose, e io leggevo uno suo scritto di qualche anno fa in cui parlava degli stranieri in Italia, non gli stranieri per scelta come lei, che ha deciso di vivere un periodo della sua vita nel nostro paese, ma gli immigrati che sono arrivati qui spesso per trovare un lavoro oppure per scampare a delle situazioni difficili di guerra, di povertà estrema. E ho letto che osserva e parla con persone del Bangladesh in Italia e che le aveva parlato con un signore che le raccontava che la moglie, quando cucinava a casa, riceveva rimproveri dai vicini italiani perché sentivano nel palazzo gli odori della cipolla, dell'aglio, del cibo del Bangladesh. È in effetti una situazione che si ripropone spesso in Italia. Noi parliamo di cucina, ma per parlare appunto degli stranieri in Italia. È curioso perché giustamente lei osservava come anche la cucina italiana ha i suoi odori. Sì, ma certo. Quindi l'invasione è doppia. Probabilmente in America è successo praticamente la stessa cosa nel passato, no? Lei dice con gli immigrati italiani. Sì, ne sono sicura, infatti. È interessante, no? Perché... E che idea si è fatta della presenza degli stranieri, degli immigrati in Italia, che sono molto numerosi, con delle situazioni di integrazione ma anche a volte di tensione? Quest'Italia come le sembra? Un'Italia tollerante, un'Italia in cui queste persone hanno difficoltà a integrarsi? L'Italia è un paese che sta accogliendo gli stranieri da sempre, no? Perché è un paese magnifico, carico di bellezza, tutto il mondo viene qui o vuole venire qui, ma ho l'impressione che ci sia un atteggiamento nei confronti dei turisti, invece c'è un altro nei confronti degli immigrati. Purtroppo non penso che l'Italia accoglia molto bene gli immigrati, sembra un paese ancora resistente, chiuso, mi rendo conto di una sfiducia, no? Talvolta purtroppo una specie di xenofobia, non sono rispettati, mi pare che siano appena tollerati. Quindi c'è un percorso ancora da fare. I suoi genitori sono immigrati tanti anni fa, lo dicevamo. Hanno mai subito pregiudizi o razzismo o episodi di razzismo? Sì, purtroppo sì. Allora, loro sono cresciuti nell'India prima dell'indipendenza. Per cui loro hanno vissuto un periodo in cui c'era una vita anche in India per gli inglesi e un'altra vita per gli indiani. Poi arrivano in Inghilterra negli anni 60, dove loro dicono che quando mia madre era incinta di me è stato difficile per loro trovare una casa, perché gli inglesi volevano avere sempre solo gli inquilini europei e di conseguenza hanno dovuto cercare case in cui il proprietario era un bengalese. Queste sono piccole cose, ma in America mia madre ad un certo punto ha subito una brutta esperienza, insegnava ad una scuola elementare, quella che frequentavo anch'io da ragazzina, lì un giorno lei comincia a scoprire dei biglietti infilati misteriosamente nella tasca del suo cappotto, e quindi ogni giorno scopre un pezzettino di carta pieno di brutte parole tipo vattene, torna al tuo paese, sei brutta, sei una brutta persona, non appartieni a questo paese, così via. Non abbiamo appreso chi ha scritto queste cose, resta ancora un mistero, ma è stato un episodio davvero, davvero inquietante. E lei si è mai sentita immigrata? Lei in fondo negli Stati Uniti era integrata, ha studiato lì, era di seconda generazione, quello come diciamo noi, no? Quindi un'esperienza molto diversa dai suoi genitori. Leggevo che in Italia si sente straniera per la prima volta. Sì e no, perché in realtà mi sono sempre sentita una straniera anche in America, no? Perché è stato difficile sentirmi americana. Per i miei è stato importante che io diventa una o abbia un'identità più bengalese che americana, e quindi c'era sempre questa tensione dentro di me. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. You gotta give a little, take a little, and let your poor heart break a little. That's the story of, that's the glory of love. You gotta laugh a little. Rientriamo a parlare nella seconda parte della nostra trasmissione con Giunpa Lahiri, la scrittrice che ha deciso di vivere un periodo in Italia. Parliamo del suo ultimo libro, La moglie. Giunpa Lahiri, questo libro nasce, se ho letto bene, molti anni fa, no? Ha avuto una lunga gestazione. Sì, come sì, mai? Lunghissima. Lo spunto mi viene in mente anni fa, c'era una uccisione nel quartiere a Calcutta dove è cresciuto mio padre, e c'erano due fratelli giovani che facevano parte nel movimento Naxaliti negli anni 70. E una sera sono stati uccisi dalla polizia davanti ai loro genitori. Quindi io ho appreso questa cosa quando ero adolescente, quando avevo 30 anni, quindi 16 anni fa. Ho cominciato con questa scena, volevo descrivere questo momento straziante, ma dopo aver scritto la scena non riuscivo ad andare avanti, quindi ho abbandonato l'idea. E poi 10 anni dopo sono tornata alla scena dopo aver pubblicato 3 altri libri. E poi ho ricominciato a vedere la storia, poi creare la struttura e sviluppare i personaggi. di questo libro, i cui protagonisti sono questi due fratelli che fanno due scelte molto diverse. Uno va negli Stati Uniti, diciamo, una vita appagata, è un intellettuale che sceglie appunto di andarsene, e uno, come diceva lei, è un rivoluzionario che purtroppo in questa scena che lei descrive all'inizio perde la vita. Da qui si dipannano le loro storie, e al centro di queste c'è la moglie di uno dei due che diventa moglie del l'altro. Tra l'altro il titolo La moglie non è il titolo originale, però è vero che lei è molto centrale, questa donna, questa intellettuale, questa madre. Sì, lei costruisce, direi, il centro del romanzo. Quindi le piace il titolo italiano? Sì, sì, mi piace, perché volevo un titolo... Soprattutto volevo qualcosa di semplice. C'è la storia privata di queste persone, c'è la storia dell'India, un pezzo di storia dell'India, ma non solo, anche degli Stati Uniti. Un romanzo che arriva dopo alcuni, lei diceva romanzi, ma anche raccolte di racconti. Tra l'altro mi veniva in mente Alice Munro, che ha ricevuto il Nobel pochi giorni fa. È una scrittrice importante, e madre che... forse con un po' di civetteria diceva: scrivo racconti perché ho delle figlie da allevare. E mi veniva in mente anche Doris Lessing, appena scomparsa, anche lei madre faticosamente, tra l'altro con una storia drammatica della sua maternità, sì, perché ha abbandonato due figli. Conosco questa la sua storia, sì. Sì, allora volevo chiederle come vive questa maternità da scrittrice, considerando anche questo personaggio che ha costruito della moglie, che vive una maternità difficile, perché probabilmente è distratta dalla sua vita intellettuale, la sua vita mentale nell'accudimento della figlia. È una fatica mentale, non solo fisica, no? Mettere assieme i due ruoli, immagino. Sì, sì, si deve avere una doppia identità, ma per fortuna io conosco bene cosa vuol dire una doppia identità, e quindi per me... non è facile, ma nel mio caso credo di essere fortunata, perché sono riuscita a scoprire un modo per dedicarmi sia allo scrivere sia alla maternità. Per alcune madre è molto più difficile, loro non trovano un equilibrio. Perché una vita creativa può essere un po' egoista, no? Perché si deve dare di tutto per il lavoro e non lascia spazio, spesso non lascia energia per altri impegni, ma io ritengo che la maternità sia anche un lavoro creativo, no? E lo è, e anche per me ovviamente una gioia profonda, ma devo accettare che ogni tanto devo smettere di scrivere, per esempio, e non è sempre possibile fare quello che voglio fare con il mio tempo. No postcode envy, but every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns trash in the hotel room, we don't care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal Maybach, diamonds on your timepiece. Il rapporto con la letteratura italiana credo che sia di grande curiosità. Ho visto citato Giorgio Bassani. Che libri legge della nostra letteratura? Sto leggendo in italiano esclusivamente da quasi 2 anni. Si sente. Quindi infatti leggo... perché parla un italiano splendido. Ah, grazie, molto gentile. No, questa esperienza, cioè leggere un'altra letteratura, leggere in italiano, è per me un'apertura straordinaria, perché io di conseguenza riesco a riscoprire il piacere da adulto e anche da scrittrice di leggere. Un viaggio senza fine. Sto leggendo Il mare non bagna Napoli di Anna Maria Ortese, delle poesie, e ho scoperto quel poema di Bassani per caso. È stato bellissimo, perché stavo per ultimare il romanzo e ogni giorno leggevo un po' in italiano la mattina, poi prima di scrivere in inglese ovviamente il romanzo. E una mattina ho scoperto questa poesia di Bassani in cui lui descrive un'immagine che uso anch'io, che descrivo anch'io nel romanzo. Che coincidenza, no? Perché è una cosa rarissima. È un'epifania, sì. Un'illuminazione. Sì, anche una connessione tra me e un altro scrittore, in questo caso con Bassani, che non conoscevo. Lei ha dichiarato più volte questo amore per la lingua italiana. Da cosa nasce questa curiosità, questo trasporto, anche l'idea di passare un periodo in Italia? Non lo so, in questo momento sto provando a capire questo mio desiderio, questa attrazione che provo per la lingua. Quando sono arrivata in Italia per la prima volta, quasi subito, vent'anni fa, volevo imparare la lingua, dopo, non so, 2 o 3 giorni, perché sono stata a Firenze per una settimana. Quindi ho imparato in qualche modo l'italiano in America, poi mi trasferisco qui l'anno scorso. Non lo so, forse perché io non appartengo 100% a nessun posto e di conseguenza non appartengo a nessuna lingua completamente. Il bengalese è la mia lingua madre, ma non parlo questa lingua alla perfezione. Per me il bengalese è una lingua soprattutto orale, una lingua della famiglia. L'inglese ovviamente è la mia lingua più forte, ma non è la lingua che parlavo a casa con i miei. Quindi c'è sempre uno scarto. Sì, esatto. E forse per questo da adulto volevo scoprire una terza lingua. Sì, esatto. Ma è molto interessante. In questo momento sto provando a scrivendo un libro che parla appunto di questa cosa, perché vorrei capire meglio. Un romanzo? Questo progetto. Una serie di piccoli saggi, perché sto scrivendo in italiano, sto provando a scrivere in italiano questo libricino sulla lingua e il mio rapporto con la lingua italiana e anche con le lingue in genere. We didn't come for money, but every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room, we don't care. Ha mai pensato di scrivere un libro in bengalese? Non è possibile, purtroppo, perché non so leggere e neanche scrivere in bengalese. Sono stata educata del tutto in inglese e quindi non ho deciso di scrivere in inglese. E quando comincio a scrivere, quando avevo 7-8 anni, scrivo per forza in inglese. Certo. E l'unica cosa è questo interessante, è che i miei personaggi parlano spesso in bengalese, quindi quando immagino la storia, quando ascolto la storia, devo tradurre quello che dicono. E cucinano anche bengalese, perché tornando all'inizio della nostra trasmissione, ci sono questi spunti anche della cucina, degli odori, delle spezie nei suoi libri. Sì, spesso. Il dal è una preparazione a base di lenticchie. Ne esistono numerose varianti, giustificate innanzitutto dal fatto che in India ci sono circa 60 varietà di lenticchie. Il dal può essere servito come un purè denso oppure sotto forma di zuppa o vellutata. Ingredienti per un dal di lenticchie rosse: 150 g di lenticchie rosse, un pomodoro maturo, una cipolla rossa, mezzo spicchio d'aglio, peperoncino, tamarindo mezzo cucchiaino, cardamomo 6 bacche, curcuma mezzo cucchiaino, cumino. Per il tarka, semi di senape, 2 cucchiaini, 3 foglie di curry, 1,5 cucchiai di olio di colza. Lavare bene le lenticchie. In una pentola ponete le lenticchie, il pomodoro e la cipolla tagliati e tutte le spezie. Coprite con 6 decilitri di acqua. Fate cuocere con il coperchio per circa 25 minuti o comunque fino a quando le lenticchie si disfano. Eliminate la cannella e frullate il composto, regolando di sale. Ponete il dal in ciotole individuali. Poi preparate il tarka. Scaldate l'olio e dopo 40 secondi unite la cipolla affettata molto sottilmente, i semi di senape e le foglie di curry. Quando i semi cominciano a scoppiettare, versate il tarka sulle ciotole di dal e servite. Io la ringrazio moltissimo per essere stata con noi, è stato un onore parlare con Jhumpa Lahiri questa sera e ricordo il suo ultimo libro, La moglie, Guanda editore, ma anche tutti i suoi precedenti, perché è veramente una scrittura raffinata e che merita di essere letta. Grazie, buona serata. Grazie davvero, è stato un piacere per me. Grazie a tutti voi per l'ascolto, ci risentiamo sabato prossimo e ricordatevi che a tavola, come nella vita, i gusti cambiano. You've got to give a little. That's the glory of love.